Quindi comunicazione, comunità, autorità si tengono insieme. Io comunico in modo retto, giusto, vero, autentico, quando io al mio interno sono uno e riconosco eventuali mie frantumazioni e le dichiaro. Cioè quando la mia parola rappresenta chi sono. Ma per fare questo, in qualche modo, io devo aver creato una comunità interiore che si riconosce in determinati principi. I principi che in uno Stato democratico sono scritti nella Costituzione del Paese e che invece nel Paese interiore sono scritti dentro la mia anima. Cioè, chiamiamo anima il punto più evoluto della mia struttura, che diventa una sorta di faro verso cui io vado per realizzare veramente chi sono. Quindi una serie di principi nei quali io mi riconosco. Se sono parte di una comunità vera, che si riconosce determinati principi, anche la comunità ha quindi un'anima, appunto dicevo prima, la costituzione di uno Stato, per esempio. Così è dentro, io acquisisco una costituzione, cioè ho una struttura di riferimento. E grazie a questa struttura di riferimento non mi sarà difficile compiere delle scelte, perché avrò idee chiare su molte cose, mi saprò orientare. Saprò distinguere tra il nord, il sud, l'est e l'ovest, tra il bene e il male, il vero e il falso. Ho anche detto che grazie a essere comunità io divento anche autorità, perché quando parlo, parlo a nome di principi che sono più grandi di me. In quanto nella mia anima ci sono quei principi, ma che sono coerenti con l'anima della comunità. Quindi io interiorizzo i valori unitivi di una comunità e divento comunità interiore. A questi punti sono anche autorità, perché quando parlo non parlo a nome mio, del frammentato e molteplice presente, cangiante, ma parlo di qualcosa che dureva nel tempo, nel quale un'intera genealogia di persone si è riconosciuta. Così, per esempio, un monaco buddista non parla a suo nome, parla a nome della sua tradizione. E quindi le sue parole, se lui è congruo, è parte di questa tradizione, le sue parole vengono da un'autorità, cioè di qualcuno che ha dietro alle spalle dei maestri, dei nonni, dei bisnonni. Ecco, proprio questa mancanza delle nostre radici rende oggi l'uomo moderno così fragile, così incapace di essere genitore, di essere autorità, di essere maestro, di essere insegnante, perché non c'è più dietro questo qualcosa in cui tutti si riconoscono, a cui lui fa riferimento quando parla a nome di qualcosa di più grande. Oggi i genitori sono diventati dei venditori, cioè devono cercare di convincere dei piazzisti, i loro figli, sono diventati piazzisti, cioè devono cercare di convincere i loro figli, che diventano i clienti, che le cose che loro chiedono vanno bene anche per i figli, sono utili per i figli, cioè li devono convincere, cosa che non è affatto facile. Questo è un tema che tratteremo a parte. Quando viene meno l'autorità sana, che ho descritto sopra, è molto difficile poter essere genitori. Quindi oggi l'incubo che vivono molte famiglie, con la difficoltà, con i ragazzi, con i bambini, bambini tiranni, ragazzi sdraiati e così via, è dovuto non solo a questioni riguardanti le singole famiglie, le problematiche psicologiche, ma sono dovuto a una crisi culturale in cui il concetto di autorità, di comunità e di comunicazione è andato quasi completamente perduto, sostituito non dalla libertà, ma dalla esattamente l'opposto, da una sorta di schiavitù, di cui parleremo fra poco.